Ok, yo, my name's N2A. Nuova stirpe, nuova stirpe, nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri. Nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri. Come per l'anaconda, nuova stirpe terza serie. Se riscontri i miei difetti, questo è il numero di serie. NS, nuova stirpe, niente setta. Ma nuovo stirpe sulla toga con la settima. Ehi, ridotto a mosto, non sto a posto e non spacco. Porto giù del vino, ma tu fossi il mio pacco. Lo sguardo opaco di una vita drammatica. Male uguale mala come la cirrosi epatica. Poco simpatica, la situa in cuve porci. Ora sproni i miei uomini come Winston Churchill. Questa è la nostra eresia, sottostante, cristiano credente, ma di rap praticante. Questo è il tessuto di stili, compatto, fatto di stili tessuti di impatto. La nuova stirpe non rientra nella storia. Fottiamo più voi che a gemellaggio una troia. Nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri. Nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri. Non devasto quello che mi sta accanto, poiché sono stanco e ranco. Sto fuori dal solito branco subculturale. Frequento ambienti che rendono l'essenza musicale non commerciale, ma naturale. Dammi del funk con un basso slap o delle strofe di Cassano con lo slang. Bang bang, cercate solo discussioni. Sbattete le vostre teste come un impatto su un airbag. Questione di opinioni, posseggo neuroni contrastanti fra loro. Fra, non voglio l'oro, neanche una medaglia, ma sembra che qui chi lo sbaglia paga. Ma chi sbaglia la fa sempre franca. Tentano di farci stare muti compromesse. Sembra che le nostre idee siano compromesse, ma sono più colme di disinteresse, antidepresse. E soprattutto sono spesse ma le stesse. Nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri. Nuova stirpe che si acclama. Nuova stirpe ascolta figlio di puttana. Nuova stirpe che fa fede ai suoi estri. Nuova stirpe di cui noi siamo i maestri.